Codice sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone Spezia. Ed eccoci qui, seconda puntata, seconda settimana per Codice Sorgente, 5 puntate alla scoperta delle tecnologie che stanno disegnando il nostro futuro. Questa settimana ci occupiamo di propaganda digitale, di marketing, che potrebbero sembrare la stessa cosa, ma in realtà non sempre lo sono, di politica, ad esempio. Simone? Sì, allora, i temi sono molti in realtà. E si intrecciano l'uno con l'altro. Vi faccio un esempio. Quante volte vi è capitato, se fate acquisti online, di andare su Amazon, cercare qualcosa, non comprarlo e poi ritrovarvi l'annuncio magari nella vostra email Google oppure su Facebook? C'è una questione che riguarda i dati e come vengono trattati, come vengono analizzati i dati che ci riguardano e che ha a che fare tanto con il come lo sfruttano le aziende quanto con il come li sfrutta la politica, e ha in realtà a che fare molto con il nostro agire digitale, cioè su come ci muoviamo all'interno della rete. Per quanto riguarda la politica, che è il luogo, per così dire, dal quale inizieremo, tutto, se vogliamo, è iniziato con Barack Obama. È stato forse il primo a mettere insieme i dati che riguardavano tutta una serie di elettori, a metterli su una piattaforma, raccoglierli e a saper mandare i volontari porta a porta, sapendo dire a ciascun elettore che il messaggio esatto che aveva bisogno di sentire. Per esempio, veniva da una zona della cosiddetta Rust Belt, ebbene, gli poteva dire: abbiamo intenzione di rilanciare il mondo dell'auto e abbiamo intenzione di investire nel mondo dell'auto e così via. Insomma, è questo sostanzialmente, è in questo modo che è nata. Negli Stati Uniti questo sviluppo prosegue ed è un sistema che hanno adottato praticamente in tutte le campagne elettorali da quel momento in avanti. Sì, a proposito di campagne elettorali, noi vorremmo iniziare proprio con una testimonianza diretta, un racconto di Paola Tommasi. Benvenuta, buongiorno Paola. Buongiorno. Allora, Paola è una nostra collega, una giornalista, è anche si occupa di economia, ma nel caso specifico per questa puntata di Codice Sorgente noi l'abbiamo invitata perché tu, Paola, hai partecipato alle elezioni presidenziali del 2016. Cioè, nel senso, non è che eri candidata, no. Hai partecipato nel senso... Come esperta di... Ecco, adesso ci spieghi in che veste hai partecipato. Allora, tu facevi parte dello staff di Donald Trump, giusto? Sì, ho cominciato proprio come economista e di fatto facevo quello, perché in ogni evento, manifestazione pubblica a cui Trump partecipasse, fornivo i dati insieme ad altri ragazzi con cui lavoravo e per customizzare il discorso, proprio quello che avete detto voi. Andavo a incontrare gli agricoltori a Fresno, che è la città della California, per esempio, con il maggior numero di agricoltori, allora fornivamo tutti i dati sul settore, quindi i posti di lavoro perduti durante gli anni di Obama, l'andamento dell'economia, tutti questi dati qui era l'attività principale. Però confermo quello che avete detto, perché questo sistema, questo algoritmo con cui si tracciavano i profili, si tracciano tuttora, degli elettori, io l'ho proprio utilizzato. Vi do anche il nome, si chiama PDI, Political Data Interface, è quello che usavamo noi, poi magari ce ne sono anche degli altri. Ci spieghi come è fatto? Cioè, nel momento nel quale io sono un attivista e sono in campagna elettorale, sono un volontario, ho in mano, presumo, il mio smartphone o il mio tablet, e su questo smartphone o tablet è installata un'applicazione che mi dà tutte le indicazioni. Cosa ci trovo dentro questa applicazione? Che indicazioni mi vengono date? Sì, che cosa mi viene detto? Che tipo di dati ci sono? È proprio così. E serviva, questa app era nei tablet che si davano ai volontari che facevano poi il lavoro porta a porta, oppure facevano le telefonate, per cui usciva una schermata con il profilo della persona con cui si trovavano a parlare e anche il copione, tra virgolette, delle cose da dire, già fatto, già pronto, quindi di fatto si leggeva un file. Ah, quindi sulla base dei dati ti viene proposto un copione, cioè ti vengono suggerite delle cose da dire? Sì, sì, i volontari che facevano le telefonate avevano quest'app per cui al nome e cognome, il numero di telefono che componevano, usciva fuori il profilo della persona e quindi anche come porsi nei suoi confronti. È una cosa che succede ad esempio nei call center, in base alle risposte, alla reazione che tu hai a delle proposte, poi il sistema dà dei suggerimenti. Beh, però con tutte le volte, con tutte le volte che l'ho mandato a quel paese, è curioso che continuino a chiamare e non mi abbiano profilato come quello che manda a quel paese le persone dei call center. Con il massimo rispetto sempre dei lavoratori dei call center, per carità. Hanno una grande pazienza. Però effettivamente sentirlo in politica fa abbastanza impressione. Ma tu, Paola, sai e ci puoi dire soprattutto da dove arrivano i dati? Cioè, da social network, vengono utilizzate le stesse logiche e le stesse regole della pubblicità digitale o di altre attività digitali? Voglio fare una battuta su quello che è stato detto di prima. Era previsto anche il caso di reazione nervosa e quindi il caso in cui il volontario veniva mandato a quel paese e ci suggeriva di non rispondere, di mantenere la calma, di essere sempre aperti, di capire sì, di, e non di reagire. Sì. Sì. I dati da dove vengono presi? Oddio, allora alcuni dati secondo me sono anche pubblici, quindi semplicemente venivano messi in un database e incrociati, perché ti diceva il seggio in cui l'elettore andava a votare e se si fosse trasferito negli ultimi anni da dove a dove, la chiesa che frequenta, e se ha votato nella consultazione precedente oppure no, per quante volte non si è recato al seggio, e questi sono tutti dati che si possono estrapolare dalle liste elettorali. E poi c'erano i dati sulle scuole dei figli e anche dei parenti, quindi per ciascuno si sapeva, è in casa con, si è trasferito e prima abitava con degli altri, è cugino di... E c'erano tutti questi incroci e allora io non ho partecipato alla creazione dell'algoritmo, quindi non lo so, però da quello che vedevo molti erano dati pubblici che venivano incrociati, anche perché bisogna fare conti con le regole sulla privacy. Sì, che però sono un po' più lasche negli Stati Uniti rispetto a quanto non siano da noi in Europa, certo. E quindi presumibilmente gli è consentito qualcosina di più, sì. No? Però... devo dire anche che le persone collaboravano molto, per cui se mancava qualche dato si chiedeva ed erano tutti ben disposti a risporre. Anche i volontari chiedevano anche che cosa vorreste trovare nel programma del candidato, quali sono gli argomenti a cui tenete di più, quindi c'era una sorta di interazione e il database veniva integrato, allargato, costruito di volta in volta. Sì, è incredibile. Per dire, anche i luoghi dove fare comizi venivano, e le date, gli orari, venivano stabiliti in base alle risultanze del lavoro dei volontari. Per cui se si notava che in una certa contea di un certo stato Trump scendeva nei sondaggi o dalle telefonate si percepiva che c'era qualcosa che non andava, allora subito si organizzava un comizio o un incontro con quelle categorie che magari lo apprezzavano di meno per recuperare il gap. Quindi anche l'agenda del candidato si evolveva in base al database e ai risultati del lavoro dei volontari, che negli Stati Uniti è centrale nelle campagne elettorali. Sì, sì. Guidata dai dati. È questo. Grazie a Paola Tommasi, che è giornalista, come avete sentito è stata nello staff di Donald Trump per le elezioni presidenziali, per questo racconto oggettivamente affascinante e anche un po' spaventoso. Vedevo interessante comunque. Giovanni Bocciartieri, sociologo, saggista, docente italiano, professore di scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Urbino. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, noi adesso dobbiamo però andare a sentire cosa succede sulle strade, Enrico. Breve pausa, poi riprendiamo tra poco questa puntata di Codice Sorgente. Codice Sorgente. Bentornati e una buona giornata da Enrico Paglierini. Assieme a me c'è Simone Spezia, Codice Sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro? In questa puntata stiamo parlando di propaganda politica, di marketing, utilizzando i dati che noi lasciamo molto spesso inconsapevolmente in rete, o molto spesso consapevolmente, ma in realtà in modo oscuro, perché accettiamo cose scritte in piccolo molto lunghe e lasciamo dati o comunque lasciamo la libertà alle aziende o anche ai partiti politici di profilarci. Sì. Chissà quanti di voi, io no personalmente, quando Facebook mi ha proposto le condizioni, ho cambiato le condizioni di privacy. Io ho bloccato tutto. Hai bloccato tutto? Sì, sì, nessuno può vedere nulla. Nessuno può vedere. Sto esagerando, però quasi. Però insomma, diciamo, nel momento nel quale ci viene proposta l'accettazione di una sorta di contratto con queste società in merito ai dati che diamo, dei quali gli diamo disponibilità, spesso appunto accettiamo molto rapidamente e poi quello vale come consenso. Continuiamo a parlare di dati, dunque, e di queste tracce che lasciamo nel nostro agire digitale. Come si diceva con Giovanni Bocciartieri, che è sociologo, professore di scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che da molti anni studia questi fenomeni. Io però la prima cosa che devo chiedere a Bocciartieri è che abbiamo tenuto in linea 10 minuti perché eravamo affascinati da questo racconto della campagna elettorale di Trump, e sapere che cosa ne pensa, perché l'abbiamo tenuta là, l'ha sentito. Che cosa dice? Ma diciamo che le cose che abbiamo sentito riguardano forme attuali della propaganda politica guidata dai dati, che comunque hanno ancora una dimensione tutto sommato di visibilità, cioè quando i dati vengono utilizzati per convincere un elettore attraverso per esempio l'interazione diretta con un volontario, in qualche maniera è trasparente il rapporto. Credo che la campagna di Trump si sia vinta anche su altri territori che sono invece più invisibili, che utilizzano i dati, quindi è più inquietante questa parte del racconto. Ad esempio, Trump ha utilizzato questo dataset di informazioni per fare campagne di micro targetizzate sui social media, in particolare su Facebook, mostrando a possibili elettori della Clinton spezzoni video in cui la Clinton in qualche maniera metteva in luce come non sarebbe andata nella direzione, una direzione vantaggiosa per questo tipo di elettore, magari presi da anni precedenti, da comizi precedenti, montati ad hoc. Quindi io mi trovo di fronte a un contenuto dove vedo qualcuno parlare, ma l'obiettivo non è convincermi a fare qualcosa, ma fondamentalmente creare una bad reputation e quindi stimolarmi al contrario a non alzarmi la mattina per andare a votare. E questa cosa non la vedo. E questo è il meccanismo, in qualche maniera, che utilizzando i dati a fini di propaganda rende invisibili in qualche maniera gli effetti sulle persone. Secondo lei, professore, si possono effettivamente e concretamente, e dal racconto che ci state facendo, ci sta facendo lei e ci ha fatto prima Paolo Tommasi, sembra di sì, ma si possono effettivamente condizionare così precisamente e scientificamente le masse? Perché c'è chi sostiene che questa attività fosse più semplice un tempo, quando c'erano pochi media, quindi pochi grandi quotidiani, le televisioni, le radio, e controllando queste si controllava buona parte dell'opinione pubblica. Nel mondo di internet e dei social network uno potrebbe pensare c'è una confusione così grande che tutto è molto più difficile, e invece sentendo questo racconto sembra proprio di no. Ma diciamo che la domanda è veramente interessante, perché da una parte noi sappiamo come si agisce, e quindi è ovvio che si agisce in questa maniera nell'intenzione in qualche maniera di manipolare, come dire, l'altro, cioè di creare in qualche maniera un effetto sugli altri, ma non esiste un qualche tipo di analisi che ci mostri come queste azioni creano però effettivamente degli effetti. Cioè io non so se sottoponendo un soggetto a un certo tipo di visione nei social media in qualche maniera produca un certo tipo di effetto su di lui, anche perché i canali di comunicazione, come diceva lei prima, si moltiplicano e soprattutto, come dire, non abbiamo una visione unitaria che può essere raccontata come nell'epoca in cui, controllando i mezzi di comunicazione di massa, in qualche modo potevo controllare una visione dominante. Questa cosa oggi non è più possibile. Parliamo di post-verità, parliamo di fake news, ma in realtà quello che diciamo è che non è più possibile un controllo effettivo dei mezzi di comunicazione e non sappiamo niente di preciso sugli effetti manipolatori che si possono produrre. Certo, quindi non è detto che Trump abbia vinto per questa attività... Assolutamente, noi sappiamo che cosa ha fatto, ma non è detto che questo corrisponda a un tipo di azione. Pensate alle elezioni di Macron, abbiamo avuto lo stesso tipo di attività contro Macron, però Macron ha vinto, per esempio. Cioè, quindi non c'è automatismo. Il caso di Trump ha messo in luce un caso particolare, ma non è che Hillary Clinton non avesse i dataset dei volontari che con la microtargetizzazione li contattassero. Questo, certo, è uno snodo interessante, appunto, come diceva Bocciartieri. In realtà non c'è una, appunto, una causalità diretta, cioè non la possiamo stabilire. In realtà, come dire, possiamo stabilirla solo molto raramente in questi campi e nel suo specifico campo, professore, no? Sì, certamente. Come dire, nelle comunicazioni di massa esisteva una teoria che si chiamava del proiettile magico, per cui, come dire, creato il messaggio giusto si poteva colpire il bersaglio che è un target, producendo degli effetti. Sappiamo, nella sperimentazione nel tempo e nella complessità di crescita della comunicazione, che non è così. Che non basta un messaggio reiterato per convincere le persone, come dire, che esistono delle motivazioni che passano più dalle interazioni interpersonali che da comunicazioni che sono esterne, che è difficile modificare l'opinione di una persona. Cioè, quelle strategie che lavorano sui dati oggi tendono soprattutto ad assecondare le opinioni che le persone già hanno. Quindi, se io ho qualche diffidenza nei confronti di un particolare interlocutore politico, l'avversario può stimolare questa diffidenza piuttosto che chiedermi di votare per lui. E quest'altra persona, quella che sostiene la tesi opposta, faticherà moltissimo, lo abbiamo raccontato, ci sono una serie di studi esattamente su questo, faticherà moltissimo a convincere la persona del contrario e spesso non ci riuscirà. Cioè, in realtà, appunto, quando uno è convinto di una tesi, fatica a convincersi del contrario. C'è una domanda che non vorrei fosse un po' troppo alta, per così dire, però secondo me è uno snodo centrale a questo punto. Quando è iniziato a diffondersi internet, molti di noi hanno visto degli sterminati spazi di democrazia aprirsi. Ci troviamo di fronte ad un momento nel quale i livelli di manipolazione sono molto alti. Lei ha parlato di fake news, è un termine sul quale si può concordare o non concordare, ma è un termine che ormai conosciamo tutti, cioè la diffusione di false notizie. L'impressione è un po' che questo momento magico sia terminato e quegli spazi potenzialmente sterminati di democrazia che immaginavamo potessero provenire dalla rete si siano un po' esauriti o quantomeno inariditi momentaneamente a lungo termine. Lei come la vede? Anche questa è una domanda particolarmente interessante e complessa, cerchiamo di semplificarla. Cioè, è evidente che la rete nasce attorno a due condizioni. La prima è un numero limitato di persone che sono presenti lì sopra, diciamo un'elite tecnoculturale, vogliamo metterla così, quindi con condizioni completamente diverse. L'altro elemento è con una visione utopica e libertaria, diciamo proprio nella fondazione. Queste due condizioni oggi vengono a meno. Uno, perché la dimensione utopica viene scardinata dalla logica di mercato. Nel momento in cui entra il mercato, e l'altra condizione, entrano le masse all'interno di questo tipo di mercato online, cambiano le forme, le dinamiche comunicative. Nel momento in cui in un social network come Facebook o Twitter abbiamo 500-600 persone che seguiamo, che ci seguono, è evidente che i modi della comunicazione non possono essere quelli della piccola comunità e in qualche modo anche le forme di interazione che sviluppiamo con gli altri e quindi le dinamiche comunicative comunitarie cambiano completamente, per cui è molto più facile che ci troviamo di fronte a diciamo tipologie di fenomeni che non riusciamo a controllare da una parte e a soggetti sempre più interessati dal punto di vista del mercato, perché ci sono i numeri oggi su internet che hanno tutti gli interessi in qualche maniera a controllare pezzi di internet, pezzi dei nostri dati e soprattutto grandi masse di persone. Dove a questo punto mi sembra di capire, per la semplifico con un titolo e poi do la parola ad Enrico che credo che avesse una domanda, da gratis ed elite a commerciale e di massa, cioè il passaggio fondamentale è questo ed è quello che ha cambiato le cose. Sì, decisamente sì, anche se la dimensione gratis oggi in qualche modo tende a permanere, perché dietro la parola gratis o free solitamente c'è una cessione di quello che è l'oro di cui oggi disputiamo, cioè i dati personali. Tra personali. Sì, sì. Cioè, infatti, questa è una consapevolezza che purtroppo non è così diffusa. Una domanda su i grossi social network. Uso il plurale, ma potrei usare anche il singolare. Cioè, il fatto che quasi 2 miliardi di persone siano su Facebook per organizzare queste campagne, posto che poi uno ha le proprie comunità all'interno, ma la piattaforma è quella, quindi le logiche sono quelle. È un vantaggio o no? Sembra un vantaggio. Allora, anche qui è abbastanza complesso il sistema, perché dobbiamo pensarlo non tanto come isole separate, ma come un ecosistema mediale completo, che va dai forum fino ai media di massa. Cioè le strategie delle campagne Clinton in qualche maniera o quelle di Obama o meglio quelle di Trump, prendiamo Trump, nascono non solamente all'interno diciamo del gruppo che si occupa ufficialmente della campagna, ma per esempio dai movimenti alt-right di cui si parla molto all'interno di forum di discussione su un canale che si chiama 4chan in America. Quindi non stiamo parlando di un social network, ma parliamo di persone che in qualche maniera si rifanno a quell'etica libertaria della rete per produrre contenuti secondo però lo spirito alt-right. E abbiamo scoperto che in qualche maniera le fake news che riguardano Trump, usiamo questo termine, arrivate ad essere divulgate dalla CNN, partivano in realtà da un forum di discussione dentro 4chan, passando dentro i social network, ampliandosi, arrivando ai giornalisti che in qualche maniera le portavano all'interno delle redazioni e le trasmettevano in diretta all'interno dei propri giornali. Quindi non si tratta tanto di avere ambienti più controllabili, è che l'ecosistema dell'informazione oggi è talmente complesso che la possibilità che i singoli hanno, diciamo gruppi organizzati hanno, di bucare il sistema è probabilmente molto più elevato, perché stiamo imparando a farlo, perché forse dobbiamo riparlare seriamente di un'etica del giornalismo e della comunicazione, eccetera, eccetera. Molto interessante. E tra l'altro approfitto per lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori. Uno degli scopi di questa trasmissione è fare domande, avere delle risposte, ma anche sollecitare i nostri ascoltatori, o speriamo buona parte dei nostri ascoltatori, ad approfondire questi temi, perché la realtà sta diventando sempre più complicata. E Giovanni Boccia Altieri ce ne ha raccontato un pezzetto di questa realtà, e tutti questi temi poi devono essere approfonditi per trovare le proprie risposte. Professore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie dunque anche a Giovanni Boccia Altieri, lo ricordiamo, sociologo, professore di scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Urbino. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo, torniamo a parlare di politica e di marketing, perché poi qua c'è il tema di cosa fanno le aziende con i nostri dati. Codice sorgente. Di nuovo insieme su Radio 24 per parlare di come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. In questa puntata stiamo parlando di propaganda digitale, di marketing, tutto si basa sui dati che noi lasciamo sulla rete e con questi dati si possono fare molte cose. Alcune le abbiamo raccontate nella prima parte, altre le racconteremo tra pochi minuti. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Simone Spezia. Ed eccoci Enrico dunque per questa seconda parte di Codice Sorgente, dove mi sembra che piano piano stia emergendo appunto l'idea che il colore di fondo, come diciamo nella prima trasmissione, nella prima puntata della trasmissione, siano esattamente i dati e come vengono trattati i dati, perché piano piano si iniziano a sfruttare nella maniera giusta queste grandi masse di dati che ci portiamo dietro. Sì, siamo pensa con... che a proposito sì. di big data c'è sì. chi dice che siamo solo agli inizi, cioè che poi se vai a guardare nel concreto ci sono ancora pochissimi esempi di un vero utilizzo di questi grandissimi archivi di dati. Quindi... Sì, sì, tra l'altro all'interno di questi grandissimi archivi di dati, così come su internet c'è tantissima fuffa, cioè, l'importante è capire come selezionarli e avere le macchine giuste per selezionarli. Andreina Mandelli insegna marketing alla SDA Bocconi School of Management. Buonasera professoressa, benvenuta. Buonasera. Buonasera, e ha scritto un libro che si chiama, se non erro, proprio Big Data Marketing, no? Esatto. Esattamente, proprio su questi temi, nel quale affronta molti elementi, tra cui l'analisi predittiva. Devo dire, questa è la cosa che mi affascina di più. Qualche tempo fa ho letto questo articolo del Financial Times che raccontava che ci sono delle compagnie telefoniche, parlava della Gran Bretagna, ma immagino che questo avvenga anche negli Stati Uniti, che sono in grado di prevedere tramite dei software sviluppati da altre aziende alle quali si rivolgono come servizio, sono in grado di prevedere il momento nel quale tu le lascerai cercando un altro gestore telefonico, e a quel punto intervengono, arrivano con una telefonata, ti fanno una nuova offerta per tenerti come cliente. Questa è una delle cose che mi affascina di più, quella dell'analisi predittiva, un po' per tutta la fantascienza che abbiamo visto a partire da Minority Report e ad andare indietro anche ad altri film. Allora Mandelli, io la prima cosa che voglio capire è come vengono utilizzati dalle aziende queste grandi masse di dati per il marketing e per l'advertising, per la pubblicità. Sì, i dati vengono, come diceva lei prima, sono raccolti praticamente seguendo il comportamento, tracciando il comportamento dei consumatori in rete, e da quando la rete internet è diventata mobile veniamo tracciati nei nostri comportamenti anche diciamo nel territorio, quindi veniamo geolocalizzati. Tutti questi dati relativi al cosa facciamo, cosa compriamo, che cosa guardiamo, con chi interagiamo, arricchiti delle informazioni su dove siamo, e quindi le informazioni di luogo e di tempo che rendono queste informazioni dinamiche, costruiscono un profilo, diciamo che costruiscono una fotografia precisa e dinamica di chi siamo anche a livello individuale come consumatori. E il chi siamo dal punto di vista del marketing vuol dire che cosa ci piace, che cosa acquistiamo, con chi discutiamo di cosa acquistare. Quindi tutte informazioni che possono essere utilizzate dalle aziende ai fini, diciamo, utilizzo un termine un po' tradizionale, della ricerca di marketing o delle ricerche di mercato. Queste ricerche non le abbiamo sempre fatte in marketing, analizzavamo i comportamenti e le preferenze dei consumatori, però proviamo ad immaginare quanto è più potente oggi la possibilità di capire il consumatore nella sua, diciamo, nei suoi aggregati, ma anche a livello di singolo individuo, avendo a disposizione dati così precisi e così, diciamo, raccolti continuativamente, quindi anche in tempo reale. Quindi primo utilizzo, ricerca, comprensione del mercato, delle sue dinamiche e anche dei comportamenti dei singoli. L'altro utilizzo, e che è strettamente collegato anche con il primo, è la possibilità di utilizzare questi dati per prendere delle decisioni, diciamo, più precise ma anche più tempestive. Se è vero che questi dati che noi raccogliamo, i cosiddetti big data, sono dati che raccogliamo continuativamente, quindi se noi abbiamo delle tecnologie, degli strumenti che ci permettono di leggerli in tempo reale, di analizzarli in tempo reale, questa possibilità, diciamo, ci offre diciamo, un potere di decisione su che cosa offrire al consumatore, che è ricchissimo. Cioè possiamo decidere che cosa offrire. L'esempio che ha fatto lei è veramente molto calzante. Viene fatta la telefonata al consumatore prevedendo un determinato comportamento, un'offerta, gli verrà fatta una promozione, immagino, che dovrebbe, diciamo, soddisfare le sue aspettative, cercando di come dire, fargli uno sconto, se la ragione, il motivo per cui è il prezzo, sta per, sì, abbandonare il prezzo. Ma naturalmente questo crea valore, crea soddisfazione per il consumatore, ma crea naturalmente anche valore per l'azienda, perché aumenta la sua possibilità di ritenere il cliente, la fedeltà del cliente, quindi la redditività di medio termine. Quindi, a grandi linee, conoscenza da una parte, supporto alle decisioni sempre più tempestive, sempre più precise, decisioni che dovrebbero tendere a creare il massimo di valore per il consumatore, ma anche per l'azienda. Questo, diciamo, è il framework, tra virgolette, ideale. Sì. Ecco, dal mondo ideale al mondo reale, professoressa Mandelli, perché io mi trovo tutte le, non dico tutte le settimane, ma molto spesso a trovare esempi di aziende che siano passate o stiano passando da, mi piace citare un americano che si occupa di questo, che diceva, da stomach driven decision, quindi decisioni guidate dallo stomaco, a data driven decision, cioè decisioni guidate dai dati, dai numeri, e molto più scientifiche. Poi nella realtà lo stanno facendo solo le grandi aziende che hanno competenze, soldi, capacità di investimento, o è un, visto che molte di queste tecnologie stanno diventando sempre più popolari? Sicuramente le grandi aziende sono quelle più avanti. Le tecnologie, come diceva lei, si stanno diffondendo, stanno diventando, se diciamo, più popolari, intendiamo anche commercializzabili a prezzi accessibili anche ad aziende di minori dimensioni. Però, se posso aggiungere una cosa a commento della sua domanda, non è detto che la decisione data driven, invece della decisione di pancia, noi diremmo, sia necessariamente più scientifica. È veramente importante capire quando il dato può addirittura diventare fuorviante. Cioè, una volta che noi abbiamo raccolto dei dati, non abbiamo finito il nostro lavoro. L'analisi di questi dati e le metodologie utilizzate per l'analisi di questi dati, che ci assicurano che la decisione che verrà presa sia, segue il suo ragionamento, tra virgolette, più scientifica. Professoressa, ci aiuta un attimo a calare nella realtà tutto questo? Sì. Io quello che vorrei da lei a questo punto è qualche esempio di decisioni prese sulla base dei dati, e che però fossero, avessero dietro o davanti o dopo, appunto, un'analisi, e quindi fossero delle decisioni funzionanti. Qualche idea, se ci può dare, sì, insomma, tre o quattro allora, spunti. Partiamo prima da un esempio magari che non funziona. Cioè, io ho tanti dati su una popolazione di consumatori, e siccome adesso ci sono questi software che fanno data mining, cioè scavano, esplorano questi dati per ricavarne quelli che gli americani chiamano i pattern, questi, diciamo, modelli che emergono dalla realtà, che ci dovrebbero aiutare a capire che cosa succederà come comportamenti in quella popolazione di consumatori. Se io prendo tutti questi dati, che siccome sono tanti mi danno fiducia, e sulla base di quello che capisco cerco di prevedere quello che succederà in quella popolazione, diciamo, in una situazione simile l'anno successivo o qualche mese dopo, dimenticandomi del fatto che le popolazioni sono fatte da individui che hanno delle diversità, e che l'analisi delle popolazioni, anche quando i dati sono tanti, richiedono che noi applichiamo delle metodologie di campionamento. Guardi, la semplifico molto per i nostri ascoltatori. È come se io avessi un campione di 500.000 persone, ma se queste 500.000 persone sono tutte under 18, è chiaramente non rappresentativo della popolazione italiana, come è evidente. Così, ma sai, il mestiere del giornalista è brutalizzare i concetti alti. Siamo fatti in questo modo. Però mi devi portare adesso qualche esempio di utilizzo, professoressa, che funziona. Allora, gli esempi che funzionano sono quelli oggi molto utilizzati dall'azienda, che a livello, diciamo, più utilizzato, riguardano l'utilizzo di questi dati di comportamento anche di singoli consumatori per offrire dei servizi che siano mirati, che siano, sì, data driven, come diceva lei. Sì. Un esempio molto semplice: la città di San Francisco, nei servizi questo diventa più facile, la città di San Francisco, diciamo, chi si occupa del management dei parcheggi della città, decide di utilizzare dati raccolti in tempo reale sull'occupazione degli spazi nei parcheggi per distribuire in tempo reale attraverso una semplice app, quindi niente di pazzescamente sofisticato, ai cittadini di San Francisco che si sono scaricati l'app, che in tempo reale sono supportati come servizio nella loro decisione di dove andare a parcheggiare, migliorando da una parte la situazione di traffico della città e dall'altra la soddisfazione del cittadino o del consumatore in questo caso, che riesce a fare quello che ha bisogno di fare spendendo meno tempo e con maggiore soddisfazione. Questo, diciamo, è un esempio semplice. Un altro esempio che riguarda il disegno dell'esperienza dei consumatori, i dati che noi ci lasciamo in giro, anche nei social, tanto per essere chiari, vengono utilizzati per capire che cosa ci interessa. Quindi se da qualche parte è memorizzato che a me interessa un certo argomento, io sono interessata di trekking, mi interessa la politica, naturalmente questi dati, che continuano a modificarsi perché anche il mio comportamento si modifica, guidano la decisione di cosa farmi vedere, da parte di chi? Da parte di Facebook, quando io entro in Facebook, da parte di aziende che mi possono offrire dei contenuti o anche delle proposte. Sì. Sul piano, diciamo, della pubblicità, in teoria, basandosi sulle mie preferenze, io dovrei vedere solo pubblicità che mi interessano, quindi pubblicità relative a prodotti che io probabilmente intenderò acquistare. Allora, professoressa, io le chiedo di aspettare ancora un attimo in linea. Adesso abbiamo una pausa, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, prima di tornare da lei, voglio andare a sentire, e intanto lo saluto e lo ringrazio per l'attesa, Dino Amenduni, che è socio di Proforma, un'agenzia di comunicazione che ha sede a Bari ma ha curato molte campagne politiche nazionali, comunicatore politico, pianificatore strategico per la stessa azienda. Dino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno agli radioascoltatori. Bene, adesso però abbiamo una pausa, quindi riprendiamo tra poco, riparlando anche di politica ma anche di marketing. Questo è Codice Sorgente, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco. Codice Sorgente. Riprendiamo l'ultima parte di Codice Sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro, e in questa puntata parliamo di marketing, di propaganda digitale, tutto partendo dai dati che sono a disposizione in grandissima quantità, e esistono anche delle professioni che si occupano prevalentemente di dati per capire dove andare a raccogliere questi dati, come raccogliere i dati. Anzi, c'era un grande esperto di dati che diceva: oggi le aziende dovrebbero avere una preoccupazione, raccogliere dati. Dopodiché pensiamo a cosa fare di questi dati. Comunque è vero che negli ultimi anni stiamo raccogliendo grandissime quantità di dati. Ci sono alcune aziende che di dati, e quindi hanno un valore maggiore rispetto ad altre aziende, di questi dati ne hanno di più, e tra l'altro questo sarà uno dei temi di cui parleremo a Codice Sorgente in una delle prossime puntate, cioè del grande valore che alcune aziende hanno anche in termini di problemi di concorrenza, di antitrust, di mercato. Simone. Sì, siamo appunto con Dino Amenduni, al quale voglio chiedere questo. Noi nella prima parte della trasmissione abbiamo sentito Paola Tommasi, che è stata nello staff di Donald Trump durante le presidenziali americane. Ci siamo fatti raccontare un po' come funzionano i loro sistemi, appunto, di raccolta dei dati per quanto riguarda i singoli elettori, ma anche singole fasce di elettorato, piccoli territori e così via. Io vorrei una lettura da comunicatore politico, Dino, su come sta cambiando il vostro mestiere e se sta cambiando sulla base proprio dell'utilizzo dei dati. Allora, il nostro mestiere sta cambiando, ma non abbastanza. Cioè, se si utilizzassero i dati in modo scientifico, razionale, sistematico, come in questo momento della storia si potrebbe fare, probabilmente le decisioni che prenderemmo sarebbero diverse e sarebbero migliori. C'è però un ritardo, secondo me, nella valutazione del dato come principale punto di riferimento, come prima cosa da fare, principale preoccupazione. Un ritardo che è abbastanza classico in Italia rispetto agli Stati Uniti, ma che puntualmente recuperiamo con qualche anno di ritardo. Sicuramente ci sono alcuni elementi che sono cambiati e che sono già visibili rispetto al passato. Ne cito due. Uno, diciamo, di natura tattica e uno di natura strategica. A livello tattico uso Facebook come esempio per farmi capire. Se oggi noi come inserzionisti potenziali, sia di comunicazione commerciale che di comunicazione politica, possiamo arrivare a un tale livello di definizione del destinatario da poter scegliere la classe d'età, le indicazioni sociodemografiche, gli interessi, quindi su quale pagina Facebook ha cliccato mi piace, per fare un esempio, o se è sposato o meno, la religione, l'etnia, potete capire bene che se ho un messaggio elettorale rivolto ad esempio a uno specifico tipo di pubblico, io posso tranquillamente raggiungerlo con un livello di precisione che nessun altro strumento tradizionale, nemmeno il porta a porta, che in questo momento sta godendo di una seconda giovinezza perché, diciamo, al calare della fiducia nei politici cresce la necessità di utilizzare i militanti volontari per creare coinvolgimento. Quindi, dato che i social permettono quel tipo di precisione, c'è sicuramente una strada che si apre molto interessante, ma è una strada anche molto pericolosa per la comunicazione politica, perché se è vero, come è vero, che la fiducia nei partiti è al 5%, la fiducia nel Parlamento è al 10%, come i dati di Demos che ogni anno vengono pubblicati a fine anno ci indicano, questo vuol dire che noi, rivolgendoci in modo generalizzato a un tipo di elettorato, anche a una super nicchia, senza che questo tipo di elettorato sia stato in nessun modo coinvolto prima, a cui non abbiamo chiesto il permesso, che magari non ha cliccato mi piace sulla pagina del politico con cui lavoriamo, se noi andiamo direttamente così, è vero, noi becchiamo esattamente la nicchia che avevamo intenzione di prendere, ma rischiamo 9 volte su 10 di ricevere in cambio commenti negativi oppure indifferenza, e questo è un po' il paradosso del comunicatore politico contemporaneo, soprattutto digitale, cioè di rischiare di dover pagare dei soldi per attirare commenti negativi sulla propria pagina. Quindi il dato serve, è fondamentale, ma senza una lettura del contesto politico anche la massima precisione può trarre in inganno. Non c'è il rischio, Dino, di una sorta di inversione? Intendo questo: nel momento nel quale tu sei in grado di colpire il pubblico in maniera così precisa e quindi conosci il tuo pubblico in maniera così precisa, il fatto che tu gli dia un messaggio a lui dedicato non rischia di costringerti a tarare il tuo messaggio politico e quindi la tua politica sulla base di quello che quell'elettore ti chiede e non sulla base di quello che tu davvero pensi? Cioè, ha un impatto poi sulle policy il fatto di basarsi così tanto sul colpire il singolo elettore, sì, o la singola fascia di elettorato? Sì, perché le policy non possono poi essere personalizzate, poi tu vai in Parlamento e devi fare delle regole generalizzate, quindi certo. Che cosa dici? Che questo tema è un tema che nasce molto prima dei social media, a che fare proprio col significato della parola partito. La parola partito di per sé vuol dire espressione di una parte. Il tema ovviamente è un tema storico e che ha molto a che fare anche con la composizione delle leggi elettorali nei vari paesi. E se un leader, semplifico per farmi capire, deve parlare a tutti gli elettori o solamente a una parte degli elettori, la cosiddetta constituency, cioè se io mi rivolgo ad esempio per una scelta mia precisa a un terzo dell'elettorato che ha determinate caratteristiche di omogeneità perché magari sono tutti quanti di un certo tipo, hanno idee comuni su economia, su diritti, eccetera, eccetera, il rischio di dover fare una piattaforma politica completamente eterogenea e quindi dover mandare messaggi tra di loro contraddittori cala. Quindi diciamo che il tema principale è precede la comunicazione, è a chi voglio parlare, quali proposte politiche io ho da dire. Se le proposte sono dedicate a un target che comunque non è tutto l'elettorato ed è piuttosto omogeneo, questo problema viene meno. Dopodiché il problema c'è e le modalità di risoluzione sono anche probabilmente inquietanti nella loro formula. Donald Trump, di cui avete parlato prima, ha certamente, i dettagli noi non li conosciamo ancora perché c'è il più grande riservo sulle modalità, anche per motivi legati alla privacy, ha quasi certamente introdotto un modello basato non più su classificazioni di tipo sociodemografico o di interessi, ma ha introdotto una variabile che fino a questo momento non era stata mai introdotta e che probabilmente può aggirare, ripeto, in modo inquietante il problema che voi avete posto. Cioè, ci sono dei primi studi da qualche anno che dicono che è possibile prevedere non solo interessi, comportamenti d'acquisto, ma anche di poter prevedere alcuni dati ipersensibili fino addirittura all'individuazione dei tratti di personalità. Esiste una ricerca storica in psicologia che parla del modello di Big Five, cioè ognuno di noi può essere classificato secondo 5 macro variabili: apertura, coscienziosità, estroversione, nevroticismo, eccetera, eccetera. Quindi, secondo alcuni studi, Trump avrebbe utilizzato questo modello, cioè basandosi su, ad esempio, lo stile di navigazione di un utente sui social media, per prevedere che tipo di carattere ha, a prescindere dal tipo di persona che è. Cioè, ad esempio, un 25enne bianco del Wisconsin che ha un tasso di estroversione molto alto riceverà un messaggio diverso da un 25enne bianco del Wisconsin che ha un tasso di coscienziosità molto alto. Qui si va oltre addirittura la pianificazione basata su interessi politici, ma si tara un messaggio sul tipo di reazione emotiva che ci potrebbe essere. Questo ovviamente crea tutta una serie di problemi etici a non finire, ma probabilmente ha dato la possibilità a Trump di ottenere quel risultato anomalo per la storia americana, cioè di riuscire a vincere le elezioni pur avendo ottenuto 3 milioni di voti assoluti in meno, perché la legge elettorale americana lo consente: se vinci nel singolo stato prendi tutti i grandi elettori di quello stato. Trump, che ha probabilmente capito che in termini assoluti non avrebbe potuto battere Hillary Clinton, perché in stati molto popolosi e molto democratici come la California, lo stato nel New Jersey dove c'è New York, lui avrebbe comunque perso, e ha deciso di interpretare la legge elettorale cercando di puntare gli stati, in particolare gli stati della cosiddetta Rust Belt, quelli che hanno perso grande potere d'acquisto soprattutto nel ceto medio, penso al Wisconsin, alla Pennsylvania, al Michigan, dove Trump ha vinto in tutti quegli stati vincendo con margini limitatissimi, 10.000, 15.000, 20.000 elettori, e ha utilizzato probabilmente questo metodo basato sui Big Five, sui tratti di personalità, per andare a pescare quella nicchia piccolissima dell'elettorato che, spostandosi dal non voto ai repubblicani o dai democratici ai repubblicani, lo ha portato a vincere le elezioni in quegli stati e poi a vincere una campagna elettorale, ripeto, pur avendo moltissimi dati in meno. Quindi la risposta a questa domanda è a due letture: una è politica, cioè io non penso che si possa parlare a tutti sempre, e che quindi di conseguenza le scelte di targeting per i social media dovrebbero risentire del fatto che politicamente si decide di non parlare a una parte, i partiti sono questo. Ma poi c'è una risposta ancora più sofisticata, cioè quello di andare così profondamente nella vita delle persone, riuscire a interagire non tanto non solo con gusti, abitudini, consumi, ma addirittura con la reazione emotiva a un determinato tipo di messaggio. Dino, tu ci stai dicendo che se uno ha un budget e ha le competenze tecnologiche, può effettivamente influenzare una massa di popolazione e vincere le elezioni? Masse comunque limitate, non penso che si possano vincere le elezioni a botte di messaggi sponsorizzati su Facebook. Penso che pochissime campagne elettorali siano determinate davvero da una campagna elettorale efficace, da un successo dei comunicatori. Io sono sempre del parere molto, diciamo, basico, che se un sindaco ha ben amministrato durante la propria azione di governo e si è comunicato decentemente le cose fatte, difficilmente perderà le elezioni. Mentre altri contesti, magari dove ci sono stati lunghe stagioni di governo monocolore, possono essere più facilmente rovesciate da una campagna elettorale. Certo, comunque il sindaco è più gestibile, perché tu vivi in un territorio e sì, controlli la situazione. Le elezioni nazionali sono un po' diverse, no? Diverse, sicuramente risentono ancora una volta della legge elettorale, delle serie storiche. Non bisogna dimenticare che Trump ha fatto questa operazione iper sofisticata, tra l'altro sfidando un po' il cliché che voleva Trump, un po', diciamo, ingenuo, comunque artigianale sulla comunicazione. Si è, insomma, è stato dimostrato che nell'ultimo trimestre ha speso in sondaggi, in polling, in analisi di questo tipo molto di più del suo avversario, quindi anche questo cliché va un po' messo da parte. Penso, ripeto, che non si possono cambiare intere, diciamo, sorti, però si possa muovere quel 2-3-4% se va bene, che in certe circostanze, e soprattutto con leggi elettorali che te lo consentono di fare, possono effettivamente modificare, sì, l'esito del voto. Certo, ti fa vincere il 3-4%. Quando dicevo controllo del territorio intendevo il cittadino, eh? Cioè, sì, quando tu, sì, vivi in un luogo hai più possibilità di giudicare quello che sta succedendo. Campo nazionale è più complicato. Decisamente più complesso. Nel ringraziare, grazie a Dino Amenduni per averci aiutato e averci raccontato tutto questo, lo ricordiamo, socio di Proforma, agenzia di comunicazione, soprattutto di comunicazione politica, ma non solo di quello. Andiamo a chiudere con Andreina Mandelli, che è ancora con noi e ci scusi per l'attesa, appunto docente di marketing alla SDA Bocconi. Mandelli, la volevamo recuperare su questo punto. Io, sentendo le parole, quello che ci ha raccontato Dino Amenduni sulla comunicazione emotiva, pensavo, alla fine nel mondo dell'advertising, nel mondo della pubblicità, questa è una cosa che si fa da sempre, tutto sommato. Immagino che abbiate anche, che ci sia in questo mondo delle classificazioni delle persone sulla base della personalità, o no? Certo, nella ricerca di mercato, nella ricerca di marketing, quando io dico tradizionale intendo dire anche prima dei big data, l'analisi degli stili di vita è sempre stata importante per prevedere i comportamenti e ha sempre dovuto essere fatta a partire da quelli che sono i tratti di personalità, ma anche i valori delle persone, quindi da una parte elementi più profondi e dall'altra elementi più, come dire, legati al comportamento di tutti i giorni. Questo tipo di necessità di comprensione portata nel mondo dei big data naturalmente c'è anche quello che diceva Minduni prima, cioè se io ho molti dati e io insisto anche dati dinamici in tempo reale su quello che stanno facendo e dicendo le persone, io riesco a costruire dei profili, quelli che una volta sarebbero stati dei segmenti psicografici, adesso diventano dei profili individuali, anche di tipo qualitativo, che cercano di scendere in profondità nella descrizione di com'è una persona, che cosa piace, anche dal punto di vista, diciamo, del tipo di messaggio, non necessariamente della proposta che gli viene fatta, ma del come gli viene posta, da come gli viene offerta questa proposta, che una volta capito possono aiutare a indirizzare la comunicazione e farla diventare più efficace. Avevamo promesso agli ascoltatori di portare l'esempio di Walmart, che è una vicenda che in realtà risale a qualche anno fa, ormai addirittura al 2004 fu il primo articolo che parlava di questo a proposito di decisioni data driven prese sulla base dei dati. Walmart a un certo punto ha scoperto che ogni volta che c'è un uragano aumentano di 7 volte le vendite di Pop-Tarts, che sono dei dolciumi sostanzialmente, e quindi hanno imparato che debbono, ogni volta che si avvicina un uragano, devono rifornire i supermercati della zona di queste Pop-Tarts perché per qualche motivo incomprensibile vanno a ruba. E certo, tu hai citato gli uragani, il meteo, che è una delle attività, una delle applicazioni più diffuse ormai sugli smartphone, genera un sacco di dati e ultimamente anche nel marketing, anche nella pubblicità e in tante altre attività vengono utilizzati i dati meteo. Ad esempio, al cinema, nella comunicazione che i cinema fanno, che oramai prevede anche la dinamicità dei prezzi, cioè prezzi che cambiano, vengono utilizzati in alcuni casi dati meteo, cioè se domani so che verrà a piovere, io faccio un prezzo in base alle decisioni che prendo, più alto o più basso, dipende dai miei, insomma. Sì, c'è un cinema milanese, se non erro, c'è un cinema di Milano. Che sta sperimentando esattamente questa cosa. Sì. Allora andiamo a chiudere, i ringraziamenti stavolta li faccio io. Innanzitutto la professoressa Mandelli, che salutiamo e ringraziamo, a presto. Sì. Grazie alla professoressa Mandelli, buonasera, un grazie anche a Laura Faggin in assistenza e redazione, a Valeria Bernardi in regia. È tutto per questa puntata di Codice Sorgente, con me c'è Simone Spezia, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sabato alle 16, domenica alle 10.